facciamoci santi. Ma sapete cosa vuol dire? Siamo contenti, siamo felici, siamo nel gaudio. Ma come faccio ormai? Comincio a diventare, Se uno non viene a dirmi che io ho 69 anni, non lo sentirete mai dire da me sicuramente, perché io non mi accorgo. Beh, forse non sono più qui bei sonni di notte, ma per il resto, man mano che noi andiamo avanti, ci impossessiamo di più della vita. Altro che meno fanfaluche, meno stupidaggini, più concretezza. E che cosa di più concreto nella nostra vita che il sentirci contenti? Cosa interessa tutto il resto? La contentezza, che non dipende dai soldi e neanche dipende dalla salute fisica. La contentezza del cuore, la coscienza. Ora che non siamo più dei sognatori, degli adolescenti, ora siamo concreti. E man mano che procedono i giorni, sempre più concreti. E la concretezza del cristiano è la sua gioia pasquale, l'essere fiducioso in Dio, abbandonato in Dio e nella sua santa volontà. Vogliamo scendere di qui come dal monte Tabor, pieni di gioia da darne alla moglie, ai figli, da darne ai vicini. Non occorrerà far tante prediche o predicozzi, perché la predica è qui sul volto. La predica sta in quella stretta di mano, la predica sta in quel sorriso spontaneo, sta in quel favore, in quella pazienza, in quel gesto di bontà. Tutto questo dice che noi siamo persone felici come Pasque. Pasqua, fuoco nuovo, acqua santa nuova, vita nuova. Coraggio, è l'augurio che io faccio a me e a voi. Che col passare dei giorni cresca in noi l'esperienza dei santi, esperienza di gioia. Ma padre, lei crede, noi veniamo tutti da una vita dura, oh sì, vita dura come la sua, prima di aver i calli sulle spalle, come rivela la sindone, dove Gesù ha posto la sua croce, i calli li aveva alle mani. Aveva lavorato come voi. C'è un falegname, più di uno qui, falegnami. Gesù non aveva quelle belle macchine che avete voi e l'aspirapolvere. No, 30 anni su 33. Pensate. Poi gli altri 3 anni di vita, il camminare, non in motocicletta o in macchina o in elicottero, per le vie della Palestina. Galilea, Samaria, Giudea, e poi il Calvario, poi quel patibolo. Eppure, dovunque passava, e gli portava gioia, agli ammalati di corpo e agli infermi dell'anima, ai buoni e ai tristi. E la sua morte è stata la vittoria sulla morte, e l'aprire la breccia che ci introduce tutti una alla volta nel gaudio del Signore, come disse al ladrone pentito: tu sarai con me oggi in paradiso. Muore sull'uscio del paradiso per spalancare col prezzo del suo sangue quella breccia, quella porta che è la nostra patria, casa nostra, il regno dei cieli. Perché il regno di nostro Padre, noi figli ereditiamo il regno di nostro Padre. Come bella la vita vissuta così, in tutte le sue fasi, nella fase della primavera, nella fase dell'estate, nella fase dell'autunno, nella fase dell'inverno. Per il cristiano è sempre giorno, è sempre figlio della luce il cristiano. Figlio del giorno, non figlio delle tenebre, non figlio della notte. Noi siamo passati dalla notte al giorno, siamo passati dal buio alla luce e stiamo camminando alla luce per immergerci nel regno della luce. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce. Auguriamo la luce ai nostri cari defunti, papà, mamme, nonni, amici, la luce perpetua. Verso quella luce siamo incamminati tutti. E quando si è nella luce si canta, quando si cammina nel buio si smorzano le parole sulla bocca, ma quando si cammina nella luce si canta, si fischia, si grida, si gioca, si scherza. Ecco la nostra vita. Coraggio. Spero che il Signore vi abbia fatto gustare queste parole, che sono il Vangelo, sono l'annunzio bello, la buona novella della nostra destinazione alla gioia, sia nel tempo, sia nell'eternità. E così sia.